parla di argomenti che magari qualcuno è appassionato, è bello condividere e confrontarsi. Proviamo a mandare avanti qualcuno, avanti sul 10. Ma c'è questo qua che c'è un baracchinetto, ma non l'ha mai trovato, vediamo se ti ascolta, e se lo ascolti Carlo, avanti Antonello. Io ve l'appoggio, salutare a tutti. Che ti ascolta Antonello, buonasera, Carlo da Sassari. Ciao Carlo, saluto, Alessio da questa parte, Carbonazzi. Vicino, infatti mi arrivi a bombetta. Se magari sono quadrato, sì. Lui ci arriva più forte di me, è Carlo. Da altezza d'aria diciamo che siamo abbastanza vicini. Ho detto Carlo, che segnale c'è Antonello rispetto a me? Simili o più basso o più alto? Leggermente più basso. Lui è appena appena più su di me, ma siamo tutti e tre vicini comunque. Sì, al massimo, proprio 9 e più 10. Ehi, vabbè, siamo vicinissimi, probabilmente poi quel di Polo è orientato pure dalle parti mie, perché tu adesso c'hai il segnale, a parte Antonello che arriva a 9,50, tu c'hai il segnale più forte ricevuto in questo momento. Evidentemente l'antenna dalle parti tue la ricevi bene, per quel motivo. Ma una domanda, l'antenna, il dipolo dove è orientato? Verso, diciamo, Mater Ecclesia o verso il mare? Allora, è puntato nord-sud, è verso, diciamo, Porto Torres, Castelsardo e poi la parte opposta. Quindi, cacchio, non sei nella mia direzione, io pensavo invece fosse più di là. Quindi, figurati, cacchio, là stai andando una meraviglia. Fa piacere perché, diciamo, l'ho azzeccata la prima, mi sa che per adesso lo lascio così, lascio tutto fermo. Ovviamente sto usando anche un cavo RG213 che l'ho preso nuovo perché l'altro non mi bastava e non volevo fare giunzioni. Sì, no, meglio il cavo, mai fare economia, soprattutto per perdita e soprattutto per resistenza agli agenti atmosferici. Se ci metti un RG58, basta un morso di una cornacchia e te lo mette in corso. Esatto, infatti questo è quello della Paoloni, non mi ricordo com'era. Datemi 10 minuti, sto arrivando, dai, ci sentiamo dopo. Sì, d'accordo. Avanti Carlo. Sì, è la serata, mi sa che sta volgendo alle 8 e tra un po' è ora di cena, poi alle 9 partita e domani niente, domani mattina faccio qualche prova radio se trovo qualcuno, perché poi di sera c'ho il turno di lavoro sino alle 10. Usando un microfono con l'amplificazione perché sento in sottofondo la televisione forse o la radio. Usando un microfono amplificato, l'MB2 ed è nella camera di fronte, perché alta non è a volume alto, volume basso. Se ti attacco in salerta con l'altro baracchino sembra che ce l'avevo a fianco, ce l'avevo. Ho capito, bene Mera. Questo è l'FM500S 34 canali modificato. Poi sotto c'è il superstato 1009 con il microfono Sanella. Capito. No, il mio è un apparato omologato, è praticamente a 4-5 watt in AM, FM, 13 watt quando vado in SSB. Ci sarebbe la possibilità, è anche abbastanza semplice fare la modifica, però per adesso lascio tutto così perché è nuovo e almeno finché in garanzia lo lasciamo così, vergine vergine. E ormai ci possiamo modificare tutti gli apparecchi. Da 40 canali puoi passare a 200, li puoi fare da 4 a 20 watt, dipende, ce n'è roba da fare in quelli nuovi. Basta fare una piccola saldatura nello stampato, noi ci vuole un mano ferma e un saldatore fine, e pochi watt, se no si cede a tutto. mio apparato Albrecht è una E5890, praticamente non bisogna fare nessuna saldatura, bisogna attaccare praticamente uno spinottino su due pin che ci sono, con un tasto reset, tipo quelli che hanno la scheda madre del computer, dopodiché si schiaccia quello mentre si riaccende e praticamente varia, diciamo, e diventa un apparato quasi radioamatoriale. Attento pompetta! Ho capito. Cioè, va bene, c'è buon apparecchio per la voglia, avanti Caruccio, l'hai sentito? Attento pompetta, mi senti? Cambio! Sì, ti sento Luca. Con le orecchie mi stai sentendo? Con le orecchie e con le scarpe. Va bene, sto andando, sì, innescando sto. No, esci benissimo. Ah, ok, da. Saluto l'altro amico, se mi ascolta, avanti. Che ti ascolto bene Luca, io sono Carlo, ho ripreso da poco a modulare in banda CB e mi arrivi molto bene qua, Santiago 9 più 5, radio 7, molto chiaro. Ah ok, da, radio 7 non esiste, comunque vabbè, avrei preso un po' la mano dalla CB, massimo radio 5 o super 5, dai, o 5 o super 5, il segnale dall'1 al 9 più 30, riprendi? Ok, sì, ma era per dirti che andavi sopra i 5 di radio. Ah, ok, anche tu arrivi benissimo qua. Vabbè, io modulo dal monte, adesso non sono al monte, la mia station è al monte. Avanti, pompo, là, riprendi. Va bene, Giulia. Sta facendo per un'ora, sei perfetto, devi segnare anche di radio. Una bajus, una bajus. Prendiamo una birra, là, arrivo subito. Sì, d'accordo. Segnato il Cagliari, Joao Pedro. Speriamo che non perda una tal volta, altro che Joao Pedro. Uia, col Covid tutti quanti molti mali sono. Tutti messi male, pochi soldi che non fanno entrare al 100% gli spettatori. Boiaia. Speriamo che la gente si riprenda a vaccinare e che nel giro di un annetto, insomma, ne usciamo fuori completamente, se no qua rischiamo grosso tutti quanti. Sì, non c'è solo. Non c'è solo questo problema di questo vaccino, no? C'è anche la viaria fra poco, sempre da Wuhan, capito, dalla Cina, capito, ma non che non ci sia qualche altra cosa adesso dei maiali, perché stanno, in Cina stanno costruendo le palazzine per i maiali, 12 piani. Questi cinesi sono proprio stravaganti, stanno sempre a modificare le cose, maledetti li vedano, oh iaia. Adesso anche voi ci stanno mandando, non so d'altro, quindi figurati. Tra poco, a posto di comprare i pomodori direttamente dall'ottolano che c'è qui vicino, va direttamente dai pomodori cinesi, con tutta quella modestia che c'è in quella qua che usano, oh ia. La Lazio è riuscita a pareggiare. Io ho visto, la Lazio ha pareggiato adesso. No, è stato fatto per il calcio, caro. Giulio, mi sembra che sei Juventino, tu così, Sì, allora, ma sto guardando la partita, continua, mi sto ascoltando. Ah, allora sei lì. Dovresti sentire la cosa quando c'è la partita della Juve, il fratello di Leoncino, a bestemmie, capita, a questo è già bestemmie. Tu non capisci nulla, quell'altro non capisce niente. Chi è che è già bestemmie? Sì! Infatti, famiglia, mi potrei fare un viaggio con la partita della Juve, ti bovo le mani in camera e bovo. Me l'ascolto solo, guarda. Lui è Juventino dalle scarpe fino alla testa. Vabbè, ma quello non vuol dire che uno debba entrare a bestemmie. Anch'io sono tutto il ventino, ma se perde, perde e basta, perché purtroppo ci sono anche gli altri che giocano anche loro per vincere, per cui non è sempre questa, no? Però stavolta vedremo, sperando che riesca a vincere, così almeno un minimo di ripresa ci sarà se riesce a vincere. Vai Carlo, vai, sì Carlo. Ok, siamo in due allora Juventini, però anche io sono moderato, una volta si vince, una si perde, non è sempre festa, ci sono anche gli altri che, come hai detto tu, giocano per vincere. Purtroppo la Juventus da un anno a questa parte non sta andando troppo bene, però qualcosina l'abbiamo anche vinta l'anno scorso, dai, quindi se quest'anno facciamo un po' di dieta, di vittorie e pazienza, speriamo bene che Allegri rimetta in sesto la squadra. Spero proprio di sì. Sì, magari questo è un anno di transizione, perché la Juve si dovrà rifare una squadra all'altezza del suo blasone, perché chiaramente abbiamo vinto per 9 anni di seguito. Anche quest'anno, l'ultimo campionato, qualcosa abbiamo vinto due coppe, e siamo riusciti, anche se con un po' di fortuna, a qualificarci in Champions, per cui non è sempre festa, ripeto, ci sono anche gli altri, anche gli altri sono uomini e sono pagati anche loro per giocare e per vincere. Riprendi Carlo. È positivo, anche io la penso come te, una volta si vince e una si perde. E niente, quindi la radio, sono contento che sto uscendo abbastanza bene, perché salire sul tetto e cambiare posizione all'antenna eccetera è una scocciatura, e così almeno ho tempo un pochettino di parlare più alla radio, di fare meno verifiche con l'antenna, col cavo eccetera. Ok Carlo, sì, beh certo, ma no, arrivi bene, qui arrivi bene, io non sono per Brazzaccia, io sono vicino a San Giovanni, sulla 131 vicino a San Giovanni, esattamente nella borgata di Ripunti, per cui arrivi bene, siamo 8:30, modulati 9, la radio 5 è perfetta, bella, chiara, potente, non c'è problema, ci ascolto molto bene. Così, meglio così, questo mi tranquillizza un pochettino, non ho perso la buona mano che avevo 20 anni fa, diciamo, quando modulavo da altre zone, insomma. Sembra proprio di no, ripeto, no, poc'anzi ti avevo fatto io quella domanda, che se tu modulavi da Bologna, perché io ho la sensazione che in quegli anni lì sono riuscito a collegarti. Sicuramente, guarda, perché mi ricordavo benissimo il nome, infatti io ti ho detto, il nome europeo, mi riferivo a Europa, al tuo nominativo. Esatto, in quel periodo, in quegli anni lì, dovrebbe essere intorno agli anni 85-90, c'era una trasmissione che si chiamava Europa, erano agli albori allora le trasmissioni, ancora c'era la lira, eccetera, e quindi avevo adottato il nome di Stazione Europa per quel motivo lì. Qualche volta mi era capitato di modulare con Sassari, non era facile, magari dovevo spostare un pochettino anche l'antenna, però più di una volta ho parlato con operatori, diciamo i nominativi vostri, infatti qualcuno dei vecchi me li ricordavo, ecco, a sentirli eccetera, anche io mi ricordo che avevo modulato con qualcuno di voi. Sì, ma io ci ho subito pensato, perché ricordavo benissimo questa situazione qua, la ricordavo, perché anch'io, ripeto, in quegli anni lì con loro ci parlavo e più di una volta anche, per cui ho collegato tutto il discorso, ho collegato e poi mi ricordavo del nominativo, tu mi hai confermato che era quello, evidentemente noi ci siamo sentiti in quegli anni, anche perché io sono un vecchissimo CB, io ci sono dal 1972, esattamente 49 anni e mezzo e oltre in frequenza, per cui ti puoi immaginare, ne ho sentito di belle persone in frequenza, per cui non c'era problema. Va bene, sono contento comunque di averti riascoltato Carlo. anni passati alla radio. C'è stato un periodo che proprio per mancanza di tempo, figli piccoli che adesso ovviamente sono cresciuti, anche io qualche anno appresso alla radio ci sono, ecco, anche se un periodo avevo abbandonato, però le rimembranze, diciamo, ci sono sempre della radio, della CB, eccetera. Beh, certo, chi ha una certa passione per la radio, chiaramente chi si è affacciato anche negli anni or sono, prima o poi rientra, perché è successo a tantissime persone. No, io da allora non ho mai mollato, è la verità. Io ho passato di tutti i colori in frequenza, ho sentito persone di qualsiasi genere, per cui non c'è problema. E sono contento di tutti questi anni di attività civistica che ho, per cui sta continuando ancora. L'unica cosa che mi manca adesso è la gioventù, la giovinezza, perché purtroppo avrei capito, se io ti ho detto 49 anni e mezzo sono di frequenza, ti puoi immaginare la mia età evidentemente è un po' avanzata. Avanti Carlo. Allora hai compagnia, perché anche io non è che sono un giovincello, no? Ho superato abbondantemente 55 e quindi anche io qualche anno di passione ce l'ho messa in radio. Mi ricordo che quando modulavo da Bonorva quasi tutte le sere mi parlavo tranquillamente con Castelsardo e Badesi da Bonorva, che sono abbastanza distanti, evidentemente in linea d'aria magari non avevo grossi ostacoli, però quasi tutte le sere modulavo con quella zona là di Castelsardo, Badesi, eccetera, anche Santa Teresa, e qualche volta sì, se anche Sassari, Osilo, avevo diciamo diverse zone, qualche rara volta anche Porto Torres ero riuscito a collegare, ma quello solo un paio di volte, mi ricordo. Certo che sì, allora evidentemente ti ricorderai di Francesco Briscolone di Badesi, probabilmente abbiamo fatto questo tutti e tre insieme, perché io Badesi lo sentivo una meraviglia qua, data la mia posizione qui dove abito, quella zona lì io vado molto molto bene. Scusami un attimo che rispondo a mia moglie che mi ha telefonato, probabilmente mi stanno chiamando per la cena, scusami un attimo. Non problema, ci sentiamo nel caso più tardi. Cosa pensa è? Ma io poi fino a te che arriva tempio passo di come voi Duoro fino a Cidro dove c'è i Cagliari, quindi figurati tu la zona di Santa Teresa l'ho sentita solo una volta e boh Rosa, Bose Marina. L'avevamo prima, sì, era una bella zona quella, la verità, molto meglio di dove siamo adesso. Ok, scusate, dai, io riprendo per salutarvi, perché appunto quando avevo iniziato vocanzi stavo rispondendo a mia moglie, mi ha chiamato per la cena, io sono nella parte alta della casa, dunque devo scendere giù nella tavernetta dove c'è la cucina appunto per la cena. Ciao Carlo, mi ha fatto piacere di ascoltarti dopo tanto tempo, alle prossime. Ciao Antonello, salutoni. Ciao Roberto, se stai ascoltando, e tutti gli altri, Luca, se ci sei ancora, e quanti ce ne sono. Salutoni a tutti, io ascolto fino lì, no, Carlo, e dopodiché chiudo per la cena, vai. Ciao, alle prossime allora, buona cena, ci sentiamo sicuramente nei prossimi giorni. Anche io adesso mi sa che chiudo perché c'è la cena alle calcagne, perché alle 9 inizia la partita e quindi tra cenare e poi andare al salone un'oretta ce la impieghiamo. Ok Carlo, ma eventualmente Carlo, siccome tu poc'anzi hai annunciato che magari che domani avresti fatto delle prove eccetera, io ho tutto il tempo che voglio, può darsi anche che ci sentiamo, se tu più o meno mi dici a che ora accendi, io può darsi che magari a quell'ora mi ricordo, accendo anch'io, così magari se ti occorrono anche dei controlli te li do ben volentieri, non c'è problema, ok? Ok, sì, domani mattina io intorno a 9:30-10 accendo la radio e vedo un po', comunque faccio faccio qualche chiamata e ci sentiamo domani mattina. D'accordo, domani allora Carlo, ben volentieri, mi fa piacere di ascoltarti. Ciao Carlo, ciao Fredo, saluto a tutti e chiudo, ciao, quale ti permetto? Via, ciao Giulio, ci sentiamo dunque le tipo tutte le prossime. Antonello, ti saluto anch'io, ci sentiamo alle prossime perché la cena è in calda. Comunque, quello che dicevi prima dei collegamenti di Mosa, Santa Teresa, negli anni 90 c'era tanta gente che stava in banda CB e quindi era anche bello per quello. Purtroppo adesso molti sono scomparsi e speriamo pian piano che qualcuno si riaffacci a questa banda cittadina. Quello sì. Ormai pare che gente usa col telefono, se le applicazioni tipo Media Civiltà, che poi l'altra applicazione è quella che è Zello, capito? E quindi pare che gente sta andando lì a modulare. Sono per quello. Comunque mi prepara anche la classe, visto che su Facebook ogni tanto viene uno, prima se lo vendono, poi cercano baracchini, cercano quello, cercano quell'altro, c'è di giro comunque ancora, di vendita di queste cose. Va bene Carlo, dai, ti lascio la cena, ci sentiamo al limite domani, stavi bene, buon quelletti, buon tutto. Ti ringrazio altrettanto, a domani. Yeah, ciao ciao. Chi è? È Teo Di Zenni! Teo Di Zenni! Allora, Teo Di Zenni, grazie. Di Zenni Teo! Uiuia! Quindi sei a casa? Sono 25 solo. Sì, adesso c'è da 25 a casa tua, c'è l'altra casa perché altro, va? Sì, non sono al mondo, sono alla pedoggia. Benissimo, alluvia. Arrivi bene, bene, bene proprio. No, funziona benissimo questa boomerang, la bombetta. Se mi ha sentito quel tipo fuori, quello di Bari poco fa. Ah, io ci bello. Anche la io con boomerang, ma me l'hanno regalata. Figurati. Ce l'ho qua a casa buttata. Poi, vabbè, c'è una specie di antenna che costruito Luca. Luca Frutta è quella della Taglia Giovanna con il barattino eccetera eccetera. Positivo frate, dai, non ci stanno problemi di ascoltare bene le gire che è perso. No, vanno benissimo queste antenne, poi. Poi c'è un quarto d'onda, un mezz'onda. Un quarto d'onda, E vanno bene a Puglia. Tu pensa se l'avessi messa sul tetto? Se avessi avuto l'antenna che c'avevo una volta io, sopra il tetto, quella già rendeva, già. Era la prima rigo che era uscita, tutta fatta in rame, figurati. Oppure la Grand Prix, quella, autorevolmente, sembrava l'antenna del tovaglio. Sì, ma anche la Mantova già va bene, dai. Già va bene, adesso che come inizia a piovere un po' di stazionali mi salgono, adesso vediamo, poi la butto giù e vedo un po' cosa posso fare. Che come lasciare così, dopo mai se la piglia ancora, deve stare sopra il tetto, poi ti rompe le balle con il condominio, capito? Lascia tutto così com'è, esci bene. Domani magari che io ti sposi, che c'è il lavoro, una bella casa, ti fa una bella stazione e hai finito di spendere i soldi e di salire sopra il tetto. No, ma non mi rompo le balle di nessuno, assolutamente. Devo stare attento a non rompere le tegole, tutto qua. Non mi c'è niente nessuno a me. Sì, vabbè, manca a me, ma hai capito. Più che altro è, ci sono, come si dice, i guardoni che non sanno cosa fare nell'ultimo piano, come ce l'ho io. Se salgo sopra il tetto, immediatamente chiamano il capo condomino, tutto da 50 adesso fa il petto, ma non lo fa se con la testa, ma non è la sistema a me, i travi, cosa faccio? Mollo tutto, non è il petto, per buttare tutto in terra. No, già va bene, fai quello che devi fare. Ma siccome non sanno cosa fare, capito? Pensano che stiano andando magari a fare qualche rapina in questo palazzo, perché no, manco a postino, figurati tu. Se il postino suona non riescono a fare niente, lasciano il postino chiunque sia, non fanno entrare, e di giorno tanto meno di notte. Vabbè, tu già, e se c'è capocondomeo ne ho. Vabbè, non c'è rimasto nessuno? Io penso di no, credo che qualcuno sia d'accordo, non lo so dire. Allora è nato via, anche Giuda, se non vado la partita. Beh, io tu che la rompi mia scatola, aia, sta musicando, aia. Salta buon fuori, saluto. Non tanto merda, saluto. Senta. Dai. Basta. Sei moneta? No, ti ho detto. No. Qualità c'è poca roba in corso. Dipendite, cazzo. Macchinette, i civili sono una cosa allucinante, cazzo. Macchina elettrica, ma una per casa a 5 posti. Cazzo, un leparo in Lugani, tante veloci, un leparo. E anche tu mi così, te ne vuole. Ecco quello che ho visto ieri notte, cazzo. Aereo con motore in avaria, atterraggio d'emergenza al vero. E io ho visto questa luce. Scendendo, finché non è arrivato lì all'aeroporto. E cosa era? Sembrava un po' strano, cazzo, questa... Perché ha fatto una volta un po' strano, ha fatto. Ed era un aereo in avaria ieri sera. Dove? Non è vero. C'era un motore in avaria, è atterrato immediatamente lì all'aeroporto di Alghero. E l'ho visto ieri sera, ha detto questa cosa bianca, mi sembrava questa che cosa. Ha detto che è strano, gli ho detto. Ha fatto una... di solito fanno il giro, no, capito? Questo invece è andato direttamente dritto in aeroporto. Ma sai che ho visto un aereo l'altra mattina, a fumo bianco, ma un bambi. E allora è quello. Se mi sa che tu. Cioè, vabbè, questo è una fotografia è fatta di notte. L'ho vista adesso su Facebook. Sai chi ha fatto questa fumata bianca? Infatti io, vedendo da lontano, facevo, stava salendo dritto, invece stava venendo, cioè, verso in alto, verso l'alto, no? Capito, no? Come si dice? In orizzontale. E penso che forse stava salendo in verticale questo aereo. Questa strisciata bianca, ma larga, Evidentemente ci hanno fatto salire su di corsa. Io invece ho visto di notte. Adesso stavo fatto le notte, una cosa del genere, non era, di solito vedo come si dice gli atterrano, che ripartono da qui, ma questo ha fatto proprio una volta diversa, totalmente diversa da quella che fanno dal mare, hai capito? Che di solito fanno un giro, vanno verso Pomotore, hai capito? Poi girano e vanno all'aeroporto di Alghero. Invece questo qua non l'ha fatto quel giro, hai capito? È andato direttamente dritto e ha girato. Poi quando è arrivato lì a... prima di come si chiama? Montedoglia, ha preso e ha girato e si è abbassato. Ho capito. Non c'è rimasto nessuno, Pompo? No, penso di no. Non c'è rimasto nessuno. Gioia. Sto cercando un coso adesso. Devo comprarmi una moto, ma non posso farlo. Perché se mi piglio il motorino faccio la fine di quello delle... capito, la gratta e vinci 500 euro e hanno un po' di cittadinanza. Aspetta un attimo, arrivo subito. Via. Andiamo.